Ora papà. E allora, prego. E la prima comunione, poi gli amici da Sassari ho portato. C'è qualcuno nascosto? Tu sei Cappa Rogero, com'è il mare? In attenuazione o ancora burottato? Com'è, buono il mare? Allora veggenti a Muglio, venne Anselli. Uia, tutti i canti non ti fanno di venarsi in casa, vai che hanno mangiato come queste schippe di pompi. Tutti imbriachi, insomma, non hai capito, sono tutti imbriachi. Addirittura! Uia. Figaro sì! Sono tutti quanti imbriachi, insomma, non hai capito? Oggi c'è la festa, c'era, quindi tutti, oggi è il santo dei castigati, hai capito? Quindi sono tutti quanti imbriachi, insomma. E allora oggi è venerdì e quindi per un weekend si soffende come se è santo brillicco. E oggi è venerdì 17, già lo sai, no? Come ti sto arrivando di segnare, buono? 9:20 sei qua. Cappa Rogero, dove sei tu? A Sassa vi sono. Meno meno, ancora. A meno che non si allaga. Già non si allaga niente, io sono a Sorso, poi la Gina da San Pì. Gianni San Pì da Sorso. Già ho capito Gianni che sei di Sorso, non ti preoccupare, si sente l'accento, quindi non ti preoccupare, già l'ho capito, quindi già va bene, meglio così, almeno qualcuno a Sorso c'è, anzi due, c'è tu e Franco. No, Antonio c'è, Antonio. Anche Antonio c'è, e cazzo, prima c'erano 5-6 di a Sorso, c'era uno che girava con la motocarrozzella una volta. Chi su carina? Falconero, è Falconero quello che girava quarantenne. Appunto per quello. Io sono alla zona alta di Sorso, sotto a Franco, la secondaria per Sennori. Sei 9-10, comunque a Sorso c'è anche cosa, c'è, come si dice? Un camionista che parlava a baracchino, adesso non sta più entrando, quindi figurati tu, adesso non mi ricordo il nominativo, l'avevo dato l'apparecchio io, l'avevo dato, quindi figurati. Sangoni, Giovanni Sangoni stai dicendo? Beh, forse sì, non lo so, la verità non lo so, non me lo ricordo più, la verità, a un certo punto, sono passati tanti anni, sono passati, quindi non è che posso ricordarmi dove abitavo, mi ricordo che abitava dentro un fosso, abitava lì a Sorso, abitava e c'aveva l'antenna piazzata lì, c'aveva, quindi a un certo punto faceva il camionista, sono in pensione. Eia, già è lui, Giovanni Sangoni, già è lui, faceva il camionista. Quando è? L'altra mattina c'era, che stava provando una radio ed era tipo in campagna, in un arrulotto, adesso stava piazzando una radio lì e non riusciva a salare l'antenna. Ah vabbè, basta chiamarmi al telefono, qual è il problema? Non è che si può chiamare a baracchino così, no? Adesso non ci sto neanche più entrando, quindi. Lo dici, quando lo trovi gli dici, guarda, avrei tanto bello di telefonargli, al limite, così ti danno un controllo, quello che è, eccetera, eccetera. E se capita già glielo dico. Ma Antonio lo senti tu? Antone? Certo che lo sentivo io Antonio, a voglia. Ehi, che ti sentiamo, ma via Genesi tu. Ehi, che mi arrivi bene. Io la verità, boh, non lo capisco. C'è un bel QFM. Un bel ingaggino adesso. Stamattina c'era Giulio anche, lo conosci a Giulio? Sì, già lo conosco, già non ti preoccupare, quello con la moto carrozzella. Boh, non lo so, di latte dolce, Giulio. Ah no, Giulio Giorda lo stai parlando tu, ho capito, io pensavo Giulio l'altro. No, io non lo conosco, conosco a Giulio di Latte Dolce, a Gio Maria di Figaro di Lippunti, poi c'era, insomma dai, qualcuno veniva, l'altro giorno sul 10 ce n'era qualcuno. Ho capito, vabbè, sai che non è tutti i giorni cazzo, che le persone in 27 entrano, quindi a un certo punto poi è cambiato tutto, il QRM, tutto, adesso quando senti le persone le senti cazzo tutte quanto, non le senti chiare, le senti tutte quante con fruscio, eccetera eccetera, hai capito? Qui ci sono industrie, via produttore, sassassa, eccetera eccetera, hai capito? Certo, Kappa Roger. No, ma io l'accendo ogni mattina qua nel salone, su Google Visioni, anche praticamente non ho avuto un problema alla schiena e quindi sono costretto a svagarmi in Ghittigosi. Ce l'avevo quando ero un ragazzino, quindi ne ho tolto tutto dall'armadio, piazzato e mi ho comprato l'antenna nuova, grande, della Sirio, quella di ultima generazione. E niente, e sto lì un po' a parlare, a ascoltare, e niente, quando c'è qualcuno di fuori, di continente, che c'è propagazione, ci facciamo qualche chiacchierata, ma a livello di dirgli se mi sentono, se non mi sentono e quanto gli arrivo. A chi da qui si fa vedere nero in grigio, uno comprende un accidente. E io stesso, la verità, quindi in inglese non capisco niente, in spagnolo vabbè c'è ben arrangio, ma francese nemmeno, poi vabbè io ho la propagazione qui tutti i giorni, ogni sera verso le 4, le 5 di sera, i russi, l'Ucraina eccetera eccetera, quindi a un certo punto io il russo e l'Ucraina non capisco una fanculo. Beh, così è. Avanti, chi è che mi stava chiamando? Emanuele, se ti sento adesso. Già ti sento già, ma ti mani a venire. No, che già ti senti, ha detto che già ti senti. Lello, lo senti tu Antonio, sì? Antonio chi? Non lo so, c'ha il figlio Gabrielino con lui, ogni tanto ne rifura un microfono, Gabrielino. No, non sento niente, sento solamente te, Franco, vabbè, da quando mi hanno tappato con questa casa di palazzine di fronte a casa mia, hai capito? È un casino ricevere. Ehi, Kappa, ho capito, no, io mi ho messo quell'antenna, la Sirio Guy, la Master System, come ti cazzo si chiama, ma non me la metto mai un nome di questa antenna. La Game Master. Ah, cioè va bene, allora, già funziona bene. La voglia. Ehi. E beh, a tu, ma in macchina con che antenna sei? Con la turbo minorita della cappotta. Trafoli, quella è buona mia. Lo sai che ce l'ho anche io una nera, che c'ha la tipo la farfalla per aprire, cioè per mettere la dritta e per abbassarla. Quella è. Sì, con lo stilo in acciaio. Io ti sento sempre bene a tu. E più ti sento meglio di quando sei a casa tua. A Marina di Sorso mi usi. E mi si andende la che sparra, a cupare rubelle. Mica caro mi non va andare da codici a barri, va alle USP. Stamattina, la rissa vera va a pigliarsi un pellet, ma io ti sono mancanti. E agatto mi barisi, che poi baratto non è me, a 6 euro mi bari, 6 euro e 79 o 6 euro E99, non so. Aspetta, nella piccola Parigi sei entrata, la chiamano in piccola Parigi. E io non vengo nulla di Parigi, no? Tu cosa vedi di Parigi? No, che non sei né Torre Eiffel né nulla, no, sei solo Montigaula. È la Villella. Là. E cosa ne so? Come tu domanda a vedere se ti dici, ne associo alla piccola Parigi sei andando. E io non ne so, con Parigi non se ne è, no, che no, che sei Montigaula, le dici sempre. E gli ha detto, i canarini mi insomma niente un gabbo. Allora quando io parlo si mettono a cinguettare e fanno la voce più grossa della mia. Eia, eia, se si manda a Sennari, passi da via Sardegna, ragazzi, a me e a Franco, in via Sardegna. Magari ero butto decisi, noi eravamo andati a pigliarti un caffè. Comunque lo sai dove puoi andare a prenderti il caffè? Dove ci sono le poste, oppure dove puoi andare a quest'ora. Non lo so, si è aperto quello di piazza dove c'era il gabbiotto da Venice, da Leo. Massiccio a Neasara, dove c'è quel muretto di pietra che vende tabacchi anche. È bellino adesso il bar, c'è il posto a sedersi, l'angolo bar e l'angolo fuori nella veranda chiusa di legno. Adesso non so se è bianca o se è ancora marrone, ma forse l'aveva fatta bianca, mi sa. Dopo gli rospilli per salire, per andare ad Espasso. Che hanno fatto il giardinetto di fronte, è bello, il Parco Europa mi pare si chiama. E Gizio, quello è bello il baretto di Asara, Ma non so se ci sei mai entrato. E K, ho capito dove si. Già va bene, ma non lo so in piazza se ce n'è bar aperti. Comunque, una volta che sali lì alla rotonda, puoi andare o a destra, o se no ti dritto e tratti da Sennari. E il giardinetto nuovo che hanno fatto quello lì è bello, mi sembra che c'è anche un campetto di pallacanestro. E da poi va giù Rugosa attaccato, la vitamina attaccata, beh. Anni sei passata da attaccato il Padre Pio. E K, adesso lì vai a sinistra, da voi a dritta, si gira la strada. E arrivi alla piazza dove c'è il gabbiotto, dove ti ho detto io, dove c'è quel bar, e trovi l'insegna Pietro Secchi, auto ricambi, caccia pesca, e tratti dritto dritto e atti a Sennari. Magari c'è il bar Lambaradana verso quello dell'angolo di su, dello stop superiore. Chi c'è di Vannino? Sento bene già. E la via di Pietro Secchi, caccia pesca sport. Gaffa. E quella è la traversa però. Adesso lì a destra trovi panificio Pala e su c'è uno stoppo e lì di fronte proprio all'angolo bar Ambaradan. Gianni, ascolti, cambio. Eia, che ti sente, una M siamo. Sì, adesso la compro, va bene, che sto passando un tappi già. Eia, ciao lei, magari se capita ci sentiamo alle prossime. Tanto io non ho procedimento, io sto passando un tappi, sono entrato, ciao Gianni. Eia, ciao Antone, mi ha fatto piacere queste due chiacchierate, dai, già ci sentiamo prossimamente. Magari sì, stasera già ci sono. E praticamente vista vai sei a Senni 2 e lì. Sulla destra trovi una strada che rimane di pupa, una strada longa. E io praticamente abito nella secondaria che c'è lì su. E le antenne si vede. E vedi un terrapieno vuoto. Due vinne a te, no una, due, sono una a destra e una a sinistra. E allora ti attende. Siena va in via Sardegna, si assente. Bravo, bravo, se tiri a destra salendo, poi ne trovi altre due antenne, vedi, l'antenna mia e l'antenna di Franco, vedi, e di fronte a Franco a destra, vedi, altre due antenne di chi si manni 5G. Io sono qui sotto, mai è passato da me, io abito dove c'è quel curvone. Bravo. Eia KK, va tu a Tidenghivi e quella si chiama via Salamagna e ti porta a Sennuri. A Sennuri, come arrivi a Sennuri devi girare la prima a destra, perché dritto non puoi salire. E ne hanno fatto che subito di la strada nuova, che se ti giri si vede tutto il panorama di Romani, si vede. E la Ferrari di plastica sul tetto dell'ultima casa, non l'hai vista. Da Nivella Rotonda mia, vai di a Ferrari Mari e ci vedi una casa che fa una Ferrari manna manna di plastica, è nata una Cuba Giulia. E se va a fare la parada, devi girare a sinistra. Hola. No, è andato a chiuso con Pugno, non lo so chi è. Avanti, amico. No, sono qua, tranquillo, sono qua. Stavo facendo un controllo sugli apparecchi. Chi sei di Franco, Si la vedi a sinistra, aveva una Ferrari di plastica rubia, è nata una Cuba Giulia. Un attimo il telefono. Ma dritto sei sceso, Anzu. Fino a poi vai dritto, mi sta senso che sei su in questa strada. E io abito in via Calabria. Attento a io seguivi, mi ricrucio che nascono da via della Resistenza e da via d'Unità Italia. E ciucchicciù. E io no, già tocca come zona, si vede tutto il golfo della Ginara, si vede. La Ginara pure si vede quando era di bella. Entria con tutti i casalini. Ho capito dove si sì. Tra via Liguria e quasi Danini si è stato via della Resistenza. E chi si lui a stare di manni, so, viene una a destra e una a sinistra, viene il crociarillo via in giosso. Perché se scendi dritto vai a via Sant'Andrea e si vedono quelle due antenne massicce che hai detto poco fa e c'è il bombolaio lì di nuovo. Inghibi poi la prima e fruì a stati impennenti. E comunque già è togo. Anche se non è togo, si è ripassato dall'altra parte, avevi fatto tutto il coso battassasse ed è passato davanti alla scala, la passeggiata grande di Signori. Ma con Gabrielino sì. Drummiddu sei o no? Fa quell'effetto, ma già va bene, almeno si rilassa un pochino. No, tu non ne ho, magari non ne ho a chi da chi mani guardo la china, mani con su tutti i programmi. Uia. Comunque se stai scendendo da dove sei risalito, che passi di nuovo davanti a uno spigna e che si rubi, già è facile la strada. Se no scendi da destra e scendi da via del Porto Torre, se ci si va direttamente a Platamona e poi trovi la Budivut. E insomma oggi sembra una giornata un po' tranquillina là, però di subito dalle 18 fa sera, allora bisogna vedere se ne va. Dove si è arrivato? Dove ci sono i rifornitori? Cosa c'è? Un giardinetto di pietra? E farò io a fissare in un'altra. E allora, da pure mi basta che tiri sempre, giri sempre a destra, tu arrivi sempre o alla Marina o a Platamona, ma arrivi subito. No, vedi. Ehi, chivi, tutti quanti, e avviene poco tra me e i chivi, cose di chi si, come si chiama, e risorse tutti con i buffriti, con i rasoggi, tutti i mancanti, insomma, le figli di Milano. E allora, magari risorse, chi si, a pace che vanno in lutto dallo Stato, e in più ne cazzo da noi si esce a fa casino, esce. Vai, l'abbiamo mandato tutti quanti a rubare di suio. E allora una nuova generazione la chiamano, i nuovi italiani, ma non se ci che gli italiani non vanno nulla, tutti quanti filippini, magrebini, egiziani e bucarotti. A Baida se tu ne vedi mancuna di chi si fa meneretti in giro, e ha bisogno di cui di una coppia ruccia la sera da che rientra. Uiuiuia, la soffuci veggia. Meno male che non ce ne frega niente a noi, forse hanno i rubi di biasi, basta che si impicchiano la rasura e lasciano la comunità di nobi tranquilla, a chi si no fuori nobi passano le luci a tipo mazza da baseball e clava come c'è antichini e capiotto un bue. Mi si gado mai, di brutto, forte e chiaro. Charlie chiama capo pattuglia, ci si. Ma chi, quella piccolina nera o quella bianca? Già lo so, voi avete un altro metro e mezzo di barro, due metri. Comunque mi, se è che manca prima di un mese, se no le batterie è alzato, sarebbe pigliato un caffè, ma mi ha fatto fare un paio di caffè da mamma. E sarebbe fatto una chiacchieratina, se ne avevo tutti a zia. Andà beh, io lì sono, lì sono. E niente, comunque già va bene, dai, se metto un altro palo di luce, di tubo, di un metro e mezzo, due metri, ancora più alta. E mica è più alta del tetto, mi si è attaccata al bordo del tetto, con un palo a L. Già glielo aggiungerò un pezzetto di palo, però è più alta del tetto, è un metro più alta del tetto, tu la vedi da dietro, dalla strada, e sembra bassa, però senti dentro la stradina già la vedi che è più alta. E adesso, come mio fratello c'ha un attimo di tempo, tanto il palo che gli ho fatto c'ha i bulloni d'acciaio e si può mettere un altro palo dentro e poi aggancia di nuovo l'antenna. Basta il mio mezzo e andare. E come ti porta c'era? Mi se no non mi lasciarà addurato, ma non lo vedi che sono buio, non riesco a camminare. Io non riesco a camminare, non riesco a starmi. Cammino con la sedia da videogioco. Se no mi lasciarà. Ma se tu basta giù un campanello mi rivedi questa macchina sta zicuzzetto grigia. È la mia chissà. Sono, anzi ti prendiamo un caffè. Mamma la guida, mamma la giù comparata. E io, ma con questo coso che ha avuto alla schiena da Rugoso mi l'hanno bloccata, che ha detto che non sono più abile a guidare. E chi se ne è fatto furios? E poi mi vedo fuori strada pure parcheggiato, un Freelander vecchi con i pedani d'alluminio, chi se la mia ma stessa. Buttoni lo bruscotto mi, si fici lo buttoni, c'ha 180 cavalli quella 500, c'ha le marmitte sportivi, sedili sportivi, e la giù comparato a andare i cerchioni bombati di pulancia delta integrale. Di brutto, non hai visto che c'ha i freni tipo Ferrari, la pinza dei freni massiccia va. Basta giù un anni con un gabbierino, al secondo piano sono io, lì per l'ombrellone c'è. Andave, tanto su Gerusalone, no, che... Ora. Cristian, tu sì, ora, becco, qua siamo qui. Ora. Allora. Però devo cambiare il microfono perché quello l'eco innesca. Ah, ho capito, vabbè. Comunque sì, io innesco non lo vedo adesso, comunque sì. L'eco ce l'ho io. Quindi. No, no, non innesca, non innesca. Va bene. Però sicuramente c'è un po' di rientro di dall'amplificatore di radiofrequenza e lo fa innescare. Ho capito. Ok, ma già è basso comunque. Beh, ci sente, ci sente. Però ripeto, non disturba. Meglio così. Sono d'accordo con te. Adesso è meglio. È più alto. Però stava fischiando un po' all'inizio, poi ha smesso. Perché mi sono distanziato dalla cosa, dall'apparecchio. Capito? Va bene, va bene. Che apparecchio è di quelli da combattimento? Ah, la 87. Ma dico, è stato modificato o è normale? No, ho già modificato la prima, poi l'ho regolato io perché faceva schifo, cioè a me non mi piaceva, capito come ecco. Quindi a un certo punto l'ho regolato così e va bene, per me va bene. Sì, beh, non è diciamo colte, aumenta anche di potenza? La potenza al massimo, all'età. Sì, amico, non ha delle potenze elevate? No, penso di sì, non lo so. Aspetta un secondo. Eccolo qua, ecco. Adesso sì, adesso è con la potenza minima. Sì, ma c'è una radio fortissima però, anche se il segnale non è altissimo, però la radio è ottima. Meglio così, sono contento, la verità. Beh, non c'è nessuno oggi? Boh, quanto sembra se non c'è neanche un cane. Era poco fa in PMR, andando con l'alghero, quindi figurati tu. Ci arrivi tranquillamente, ma con l'antenna esterna? Sì, sì, con l'antenna esterna, sì. Ciucucciu. Vediamo un po' se mi rispondo. No, non c'è nessuno. Adesso. Allora, Alghero. Non mi rispondo, vuol dire che c'è nessuno. Vabbè. Poco fa comunque stavo a parlare, ma neanche 5 minuti fa, la verità. Su che canale? Canale 7 in PMR. Non lo so. Io ho l'antenino qua sulla. Beh, me l'ho costruito io, però non so se arriva Alghero. 446081.25. 446 081.25, in pratica sarebbe il canale 7. Quindi allora ce l'ho già memorizzato, dai. Aspetta che ti sento. Ciao, voilà, facciamo la prova. Non ti sento bene. Sento che parli ma non ti sento. Ale. Ci sei? Prova. Sono qua, aspetta. Abbassa un po' che stai innescando. Hola. Va bene così va bene. d'accordo, va bene, non c'è problema. Oh, Giovanni, arrivava una bomba, una... invece a te ti sento basso, a volte capivo qualche parola, sicuramente vuoi sul tetto l'antenna, va? Vabbè, ma tu Giovanni c'era vicino, che c'entra, scusa, in PML c'era vicino. Sì, ma con l'antenna sul tetto ti avrei sentito bene anche a te. Ah, quello sì. Io ho l'antenna sul tetto, ma tu non ce l'hai, il discorso è quello. Te lo parlo quello io, con il nero, eccetera, eccetera, quindi a un certo punto. I problemi sono i tuoi, non mi. Sì, no, quello è poco ma sicuro. E già lo sai, a tal volta che in pratica c'era, come si dice, quello di Olmedo, quel ragazzo di Olmedo, già lo conosci anche tu, ci conosciamo da più di 20 anni, quindi a un certo punto si piazza ripetitori per i fatti suoi, quindi figura di tu, e quindi tu dici anche lui che io devo fottela. A Olmedo ci sono un paio di antenne, vedo, dopo Olmedo però andando strada vecchia di Alghero, dai, da Olmedo andando verso, come si chiama, verso Ruscello, dai. Non lo so dove sia, ma però qualche volte parliamo assieme, sto dicendo che ci divertiamo in pratica, capito? Sì, dove lui è una zona, non è molto alta come zona, perché Olmedo è una zona bassa, però è aperto a tutto. A tutto per quello, andate back. Buonasera a todos, mio più room. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ciao Gianni, un abbraccio, buonasera. Ciao Fra, un abbraccio, come va? Va bene, dai, non ci possiamo lamentare. Ma no, io sono a dolori oggi, c'è tutte le articolazioni che mi fanno male, deve essere, ho preso il freddo, sto portando il cane, la notte. Buonasera a todos. Ciao Claudio, un abbraccio anche a te. Le articolazioni, non dirlo a me, a voi dire ciao Claudio, buonasera. A me fanno male tutte le spalle, sempre le spalle, il petto, le braccia, e artrite reumatoide. Non è riuscito, artrite reumatoide, quello è. Reumatismi, artrite reumatoide è una fragoce, artrite reumatoide c'è la mia figlia che fa la puntura ogni venerdì, ogni settimana. Franco, ma l'antenna ci sei matto? Ehi, lo rimette in verticale, ma non è che cambi molto, cioè, anzi qualcuno lo sentivo meglio anche in orizzontale. Che fa cambi molto? Cosa ride? Sta arrivando un nuovo pieno, abbondante anche, ma si è attaccato. Sì, c'è il sgancio. Chi è che non mi sentiva? Mi ha detto di agganciare. No, Alessio mi ha detto, Antonello, attacca perché ti sento basso. Beh, normale. No, sta arrivando bene, agganciato così, sì, il tuo segnale di sempre, non fa nulla. Va bene. Ok, riprendi Gianni, 2 secondi, io sono qua, perché devo attivare il riscaldamento, se no fa poco ci morino. Io vorrei provare ad attaccare quella Gigiola per vedere se con lui si comporta bene. Gianni, se si comporta male con gli altri baracchini, cosa mette Rolls Royce? Non è sempre un baracchino. Non è che c'è un abbinamento diverso, l'abbinamento che dà l'amplificatore è l'antenna, quindi antenna, amplificatore, radio. Non fare danno, perché poi te ne penti e provalo se vuoi, ma io l'avrei già messo dentro il cassetto, se no non parliamo a mezzo. No, non è il caso. Finirà già, abbiamo la stessa età, ma cosa vuoi? Va bene, le tue patologie sicuramente sono superiori alle mie, ma io ho un inizio di artrite reumatoide, che è una pluriumatologia. malattia che mi prende alle gambe, alle ginocchia, ai muscoli, alle braccia, dietro la schiena. E cosa devo fare? Io ogni settimana, ogni lunedì prendo il cortisone. Quindi ogni lunedì, purtroppo è così, per rimanere in piedi, per andare avanti, è così. Io non lo posso prendere perché fa salire la glicemia. Io mi sono pigliato una bottiglia di birra e mi è passato tutto, la schiena, la retta e dietro, pucci, quindi è meglio che fare con la cura, una bottiglia di birra solamente, basta. E ti ammazza anche la glicemia. Ah, tosto l'uccello, ti toglie tutto, ti toglie. Io ho pigliato le pastiglie, eccetera, eccetera, non mi ho fatto un tubo. L'unica cosa, una bottiglia di birra. Allora, il pranzo, la verità, prima di mangiare, poi ho mangiato, e mi sono sentito veramente bene. Non riuscivo neanche a sollevare, ma con la busta della spesa, figurati tu. Prima, durante e dopo i pasti, dai. Anche a me il mio medico me lo dice sempre, una birra al giorno toglie il medico di torno. Anche il conno toglie il medico di torno. E allora, è un proverbio, Emmi. Ehi, un attimo che faccio la boletta. Avanti, Claudio. Ci sta pensando Claudio, aspetta, adesso ci sta pensando. Ma sai che faceva veramente male, le spalle, dalla parte all'altra, e poi alla cervicale, cazzo, quando ti alzi la mattina sembra che sei sbronzo senza bere una bottiglia di vino, cazzo, a un certo punto. L'unico modo è quello, non c'è nient'altro. Ma d'inverno a me la birra non mi piace, preferisco il vino, a me. È uguale, non cambia nulla, basta che scaldi i muscoli, eccetera, hai capito? Tutto lì. Io ho fatto quella cosa lì, basta, poi magari qualcuno sarà... mi dirà il contrario, quello che è, eccetera, eccetera, ma comunque sia, io ho fatto così e sto veramente bene. Per 2 o 3 giorni, il discorso è quello. Non devo stare a casa con le pastiglie, a girarmi le palle, cazzo, a un certo punto, mamma mia, non esiste. E poi le pastiglie fanno ancora più male, invece un bel bicchiere di vino ti riscalda, ti mette il fuoco dentro, mi. Amo! Così è tu. Ehi, buonasera a tutti. Buonasera a tu, buonasera, ben ascoltato. Capo, con lecca lecca, Capa, capa, già lo sento già. Oggi ti sento bene, tu sei a casa, sì. Sì, sono a casa, fondo scala mi sento. Sei su 9.30 se non sbaglio, prova. 1.3, 1.3. Sì, aspetta. Capa, sta così come diciamo bocce. Eccezionale, eccezionale proprio. Mi sto facendo portare una Fusaro, mi dico, queste antenne. Eccezionale proprio. Molto? Non lo so. Ma ce li vale tutti, quello che costa ce li vale tutti. Sono delle antenne che... qualità e prezzo, ce l'abbiamo quasi, ce l'ho io, ce l'ha Antonello, quella 3 radiali, cioè, non lo so quant'è, però sta portando Fusaro a Sassari, della Midland, io ce l'ho della Sirio, ma la Matte Sigozza, io ce l'ho della Sirio, quella di Fusaro è della Midland, ce l'ha cosa, ce l'ha 12 anni sul tetto, mai fatto niente. Una manutenzione, nulla. L'America di 5 ottavi quella è, della Midland. Ce l'ho io, ce l'hai tu e ce l'ha anche un sacco di altra gente. E finora è andata sempre bene. C'ha anche addirittura l'Obastrana, pratica lo stiro, c'è una specie di gabbia antistatica che usavano una volta nella Supervigipus, figura di sviluppo. Tipo una sfera? Esatto, sei bravo. Io ce l'ho così. La mia è così lo stesso. Serve per eliminare le correnti, insomma, elettrostatiche, da. No, va bene. Va bene, sicuramente noi siamo vicini, però arrivi forte qua. No, guarda. Io ce l'ho già. Mi sembra che già il secondo anno sul tetto. 2 o 3 anni ce l'avrò sul tetto. Ma però, se li vale tutti quello che costa, se li vale tutti. La verità, qualità e prezzo funziona bene. L'importante è che regga il vento e che non entri acqua nella bobina. Se la isoli bene non succede niente. Me l'ho segnata. E cosa ti do? Un segnalino Giuseppe Santiago. Se non mi metti più i nonchi. Però falla come la prova, non con Antonio, aiuto. 1, 2, 3, guarda adesso così è al minimo la potenza. Al minimo, ma si è agganciato? No, devi prima fare un passaggio sganciato. Poi ti dico se sta funzionando. Così è sganciato. Ok, così è sganciato. Aggancia. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai da 9.10 a 9.20, quindi qualcosa li sta dando. Quanto ti sta dando segnando a te? Questi sono 30-40 watt, non di più. Ma fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, sono 34. Non li dà, li dà. Beh, 30 watt sfruttateli con Royce, visto che ne dà pochi. Il segnale aumenta, vai da 9.10 a 9.20 con la prima potenza, con la potenza alta vai a 25, ma arrivi quanto arrivi col Magnum, né più né meno. Ascolta, la radio com'è Claudio? La radio è perfetta, non distorce per niente. Ah, allora c'era qualcosa che non andava nei collegamenti. Usatelo con Royce, però non è un lineare quello che deve dare 30 watt e 40 watt, è quello un lineare che deve dare almeno 150 watt in AM. È spaccato, addirittura. Cosa ti sei sganciato già? Cosa? No, io ce l'ho agganciato, l'hai da 30, ne saranno 30. Aspetta, lo metto un chilo, vado a vedere. Sì, 30, sono anche un chilo. 30 watt, quel lineare sta andando praticamente, sta dando neanche la metà della potenza, capito? Quindi qualche problema c'è. Però se va bene così con il Royce, se ti va anche di usare il Royce, usalo. Cazzo, segnale vai da 9.10 a 9.25, è tanta roba qui da me. Io te li posso dare i controlli reali, non Antonio che ce l'hai attaccato. Guarda così. Ho trovato la studia. Cosa hai trovato? La studia per lavorare. Adesso sono 50, buoni. A mappa l'ecco. Claudio. Sei sattido. È sattido? Quindi l'ho detto così. Così va bene, la radio è buona. Cazzo, già cambia da 9.20 a 9.25, 9.23. Però diventa satura, così c'è 9.20 pieno, da 9.10 a 9.20 è perfetta, capito? Ma da me però, e poi dagli altri che c'hai vicino, non lo so, lì si è accerchiato di tutti quei lupi mannari. Magari c'è qualche cosa che non va. Ok, va. È un problema di componenti, se quelle sta andando, ok, quel lineare deve dare, io l'ho avuto, il modello, non come tecnici, lui c'è invece un garderobo, anche se è bellino esteticamente, però quel lineare lì deve dare 150-180 watt, ok, in AM, AM-FM, nel senso mi ne dà qualcosa in più, quindi se non sta dando la potenza che deve dare, ok, lì c'è qualche componente da sostituire, magari si può riparare, capito? Devi farlo vedere a chi di competenza. E allora va bene, magari può essere qualche integrato, può essere qualche transito, può essere qualcosa sull'inizio del prefinale, qualcosa c'è, non lo so. scappa, il mio tanto mi sta fatto. Hola. Tu sei agganciato? Scappa, sono agganciato adesso. Sgancia. Hola, hola. Tu vai da 9.5 a 9.20, il tuo li sta dando tutti i fatti. Hola. Hola. Ehi, lascia non scaldare bene a vedere. Sei quante gianni, agganciato sei quante gianni. Però tieni conto che hai il doppio della potenza di Gianni, capito? Il doppio. Lui invece ne ha la metà di te, però è più in alto di te, è più aperto per me. Boh, non lo so quanto mi sta dando. Oh. KK, dai. Comunque già sta salendo piano piano. Hola. Usando Giulio, mi ha toccato un coso, il tunnel mi ha toccato Gabriele. Scatto, ha detto, ma perché non sale di potenza? Invece me l'ha toccato questo. Vai, va, sta sempre andando più forte. Io beh, siamo in 131, più di 120 watt non dà. Quindi non è che devi fare allarmenti lì. Mentre Gianni, quello se è a posto 150, 180 li dà tranquilli, però usato con Royce, visto che Royce ha poca potenza, può usarlo incrementando quei 50 watt, 40 watt che dà, e l'aumento c'è. Mario, adesso sono soldato. Stai fischiando? Quello va usato, cioè Royce ha poca potenza, non va bene perché non lo fa spingere abbastanza. Bisogna darle un po' di potenza, bisogna darle, però che spinge poi. Senza esagerare, senza esagerare perché poi non va. Bene, da 80 adesso, 80 di lusso. Guarda, adesso sono col gas, ho messo il power al minimo, Claudio. Cazzo, vedi che va bene, ma non è già, te l'ho spiegato l'altro giorno, ti ho detto anche com'è il collegamento, non è che stavi sbagliando, no? E anche con Galaxy va bene, sei 9.25 pieno, da 9.10 a 9.25. No, non stavo sbagliando, sicuramente qualche ispezione che non andava bene, gli ho rifatto l'ispezione stamattina. Adesso vai bene, abbassa appena appena ancora la potenza del Galaxy. Abbassa, guarda, così mi sta dando su 74. Già, una cannonata, puntella, mettiti il segno, fai qualcosa. Per il Galaxy la potenza di eccitazione, di ingresso sul lineare è questa. La radio è perfetta e vai da 9.10 a 9.25. Alla grande. Sono contento, va, che sono riuscito. Ma a volte cioè, faceva questo rumore strano e non capivo da dove era. Va bene, là, stacco tutto e ripeto il tempo. Se lì tu non passi, Gianni ti frega 5 punti S, tu sei 9.20 agganciato, lui è 9.25 pieno. Ma io non, cioè,